Tanto tempo fa avevo un'amica che era anziana, sembrava una befana, Antonia. Aveva 98 anni quando è morta, era del 1900. Libero era suo fratello. Conoscevo Antonia da tanto tempo. Abitava nell'appartamento di fronte a quello dei miei zii, a Trento. L'appartamento era stato dato a lei e a suo marito Renato dalla città di Trento, in premio per le sofferenze patite, per l'attività di resistenza e per aver contribuito alla nascita della Repubblica Italiana. Poi, nel 1968, suo marito Renato è morto e lei è rimasta sola, senza più nessuno, e così si è affezionata a noi, i miei zii le volevano bene. Il suo appartamento e quello dei miei zii erano praticamente la stessa cosa. Lei dormiva di là, ma mangiava di qua. Era curva, era lentissima, ma era lucidissima e totalmente autosufficiente. Credo che se non fosse stato così lei, con calma, però, si sarebbe gettata dalla finestra. Insomma, poi è morta. E nessuno reclamava le sue cose, non che ci fosse molto, a parte l'appartamento, qualche cimelio, qualche vestito e questo baule. Un giorno, un anno dopo circa, si presentano due ragazzoni, parlavano inglese, ma non erano americani, erano canadesi di Toronto, erano i nipoti di Cesare, il fratello maggiore di Antonia, classe 1892. Cesare era emigrato in Canada nel 1910. Quando Antonio aveva circa 10 anni, e poi nessuno aveva più saputo niente di lui. Soltanto nel 1972, quando era morto, era giunta notizia di lui. Si dice che fosse morto in un incidente stradale. E, insomma, Cesare era l'unico dei fratelli ancora in vita e nessuno a parte lui aveva dei discendenti. E i due parenti canadesi esigevano quello che era loro, volevano l'appartamento. D'altronde chi non vorrebbe un appartamento a Trento? L'appartamento se lo sono preso, ma stavano per buttare via tutto quello che c'era dentro. E così gli ho chiesto se potevo tenermi il baule. Posso tenere baul? What? Tu appartamento, i baul. Baul, oh, the trunk, yes, of course. E ci siamo bevuti una birra ed è andata così. Ed ecco come sono finito in possesso dei disegni di Libero. La famiglia di Libero era quindi così composta. C'era Cesare, il fratello maggiore, poi c'era Ferruccio, classe 1895, Ezechiele, classe 1898, e poi Antonia, classe 1900. Poi c'erano mamma Giustina, classe 1870, e papà Fortunato, classe 1869. Sì, lo so, sembra 100 anni di solitudine. Ah, e poi naturalmente c'era il nostro Libero. Nel 1910, quando un parto non va bene, allora sono guai. È così che nasce Libero, sono guai. La levatrice lo deve tirare fuori col forcipe, prima però prova di tutto a ruotarlo, spingendo dall'alto. Oggi le mamme cercano l'ebbrezza del parto fisiologico, naturale, in casa. Nel 1910, se sei povero, in casa lo devi fare, bambino. E così chiami la levatrice che ce la mette tutta per portare a termine il parto con meno danni possibili. E spesso va bene. Ma qualche volta, diciamo, il 10%, ecco, delle volte, qualche cosa non funziona. Libero è uno di quei 10%. La testa è troppo grossa, non passa. Poi si è anche messo di traverso. Insomma, un casino. Libero è il quinto. È andata bene con gli altri. Perché non con lui? Chissà quante volte se lo sarà chiesto, papà Fortunato. Ma dopo aver ravanato un bel pezzo, la levatrice finalmente riesce a tirar fuori il bambino. È libero! Sono riuscito a liberarlo! E respira, è un buon segno! Poi c'è l'emorragia e mamma Giustina diventa santa mamma Giustina. Quella che voglio raccontarvi è la storia di Libero in 5 ore e 36 minuti. No, non preoccupatevi. Non è che staremo qui 5 ore e 36 minuti. Questo è quanto ci ha messo Libero a disegnare le sue tavole il giorno 2 settembre 1943, nel periodo di tempo che va dalle 6:20 alle 11:56 della mattina. Questo lo so perché me l'ha detto Antonia, che per tutto il tempo è rimasta lì con lui a guardarlo mentre disegnava. È il 2 settembre 1943, un giovedì. Libero, Antonia e Renato vivono in centro, a Trento, nel quartiere della Portela, in una torre abbastanza alta che guardava il quartiere. È stata abbattuta dopo la guerra. La Portela è un quartiere povero, antico, gonfio di umanità. Io non so quante volte zia Antonia, che non era proprio mia zia, me l'ha raccontato. Ma questa è la scena. Libero è lì, alla finestra, che guarda in strada e disegna. E per tutto il tempo continua a fare un rumore. Antonia non ci presta attenzione, perché Libero è un personaggio un po' strano. Lui spesso fa delle cose un po' particolari. Il giorno prima, ad esempio, al mercato contadino, si era messo a correre in mezzo ai carretti della verdura. E poi si era fermato, immobile, come se avesse visto qualche cosa di orribile. Lui non parla, lui disegna, comunica così. A causa della morte di mamma Giustina, papà Fortunato crolla e scompare per un po', per un mese circa. Nessuno ha mai saputo dove fosse andato. E così a portare avanti la famiglia rimangono Cesare, Ferruccio, Ezechiele e Antonia. Cesare è già maggiorenne e lavora in falegnameria. È lì che conosce Renato, che poi sarà il marito di Antonia. Poi qualche mese dopo, nel nuovo mondo c'è bisogno di manodopera capace, di falegnami specializzati. Cesare, come tanti, prende il volo, cioè la nave, terza classe, da Livorno, destinazione Canada. E ancora una volta papà Fortunato scompare. Ferruccio, l'altro fratello di Antonia, nel 1917 è sul fronte della Galizia, combatte con la divisa austriaca, perché Trento è austriaca. Lui avrebbe tanto voluto disertare, perché a lui i tedeschi stanno sui maroni, e la guerra è una puttanata, e lui si sente italiano, e ammira Cesare Battisti. Però poi Battisti viene impiccato nel 1916, proprio a Trento, nel cortile del Castello del Buon Consiglio, assieme a Fabio Filzi. E insomma, Ferruccio perde la fiducia e non ce la fa. E anche di lui non si è più saputo niente, niente lettere, niente notizie, niente. E così in famiglia rimangono Ezechiele, Antonia, Libero e il papà Uccel di Bosco. Antonia e Renato si sposano nel 1919. Antonia ha 19 anni e Renato ne ha 23. Ormai sono fidanzati da tanto tempo. Renato lavora come falegname, è bravo, è richiestissimo e così mette su anche la sua bottega. Si sposano in gennaio e c'è freddo. Ma non c'è la neve a Trento, c'è soltanto freddo. Il freddo però non è un problema. Renato ama il freddo, lui ama il grande nord. Ha il mito della Russia comunista. È un fan di Vladimir Ilyich Ulyanov, in arte Lenin. E nel 1920 nasce anche il piccolo Vladimiro. Evidentemente Renato e Antonia nutrono grandi speranze per lui. All'epoca è possibile, non è impensabile, che la rivoluzione comunista si spanda anche in Italia. Molti fra i proletari ci credono e molti fra i borghesi e i ricchi si preoccupano. C'è chi ha paura di vedere socializzata anche la propria moglie e c'è sicuramente anche chi lo spera. I comunisti mangiano i bambini. Ecco, Renato è comunista, ma i bambini non li mangia. Qualche scappaccione forse ogni tanto, ma pochi e con fortissimi sensi di colpa. Comunque sicuramente non li mangia. Comunque è un brutto momento questo per essere comunista in Italia. L'Italia sta virando con vigore verso il fascismo. Quelli che il giorno prima dicevano di essere antifascisti, adesso diventano fascisti. Perché si deve pur mangiare, perché si deve pur lavorare, perché c'è bisogno di disciplina. Perché la classe dirigente fa schifo. Perché il duce ci conduce. Perché non è che io ci credo, eh? Anzi, Mussolini mi sta pure sulle palle, ma in mancanza di meglio. Ecco. Ecco. In mancanza di meglio. Questo è l'atteggiamento tutto italiano che relega al fatalismo o agli altri le decisioni sul proprio futuro. È libero? Libero. Libero è un personaggio fantastico. Lui non guarda mai negli occhi le persone. Emette strani suoni invece di parole. Per questo la gente pensa che lui sia matto. Poi, non gli piace essere toccato da nessuno. Soltanto così, toccandosi con l'indice, così, dito dito, indice contro indice. È così che lui capisce chi è suo amico. In realtà questo modo di salutarsi non è male per niente, eh? Si passano meno germi così. Sì, provatelo anche voi, col vostro vicino. Scambiatevi un segno di pace. Provateci veramente. Dito dito, col vicino, dito dito, attenti a non centrarvi gli occhi, non è facilissimo al buio poi. Bravissima, dito dito, dito dito, dito dito, eh? Favoloso. Nel favoloso mondo di Libero ci sono poche persone sempre le stesse. È estremamente metodico e tutti i giorni lui si alza la mattina presto e comincia il suo giro della portella, il suo mondo. Prima va dal parroco Don Luigi e lo saluta dito dito. Libero è di famiglia comunista, non va mai a messa, però il parroco gli vuole bene lo stesso. È probabile che dopo Gesù, Don Luigi sia il cattolico più comunista che sia mai esistito. Comunque, sicuramente un antifascista. Se l'era presa non poco quando nel 1923 i fascisti l'avevano obbligato a bersi un bel quartino di olio di ricino perché aveva giudicato, definito una pagliacciata la marcia su Roma. E quella volta Don Luigi, seduto sulla tazza del cesso, aveva giurato vendetta. Come può giurare vendetta un parroco obbligato a passare un brutto quarto d'ora coi pantaloni abbassati? Pericolosissimo. Funziona così. Tutti i giorni Libero gli porta un disegno che ha fatto il giorno prima. E Don Luigi, in cambio, inventa una rima tutta per lui. Quando Bandiera Rossa se cantava, 100 lire al mese se ciapava. Adesso che se canta giovinezza, se muore tutti dalla debolezza. Benito, benito, tenai ciava pulito. Che tanto si sa che Libero non parla con nessuno e sicuramente non va in giro a dire da dove vengono le rime. Dito, dito. Poi, dal Rosario, il panettiere. Gli recita la rima di Don Luigi. E il Rosario in cambio gli regala qualche fetta di pane. Dito dito. Poi al negozio di frutta e verdura. Lì c'è Francesco, il suo amico, che oltre ad essere il proprietario del negozio è anche un contadino e capo della cooperativa dei contadini, e i prodotti del suo negozio vengono per la maggior parte dalla sua cooperativa. Francesco lo aspetta e in cambio delle fette di pane Francesco gli regala una mela, una carota, una susina, qualche cosa di stagione. Dito dito. Poi di corsa dal pittore Gino. Gli dà la mela, la carota, la susina che gli ha dato il suo amico Francesco e Gino in cambio gli permette di stare lì con lui a guardarlo mentre disegna. Libero è maestro dell'arte del baratto. E lì se ne sta, fermo, immobile. Libero passa le ore con Gino. A volte, se Gino non c'è, Libero va a casa della Giorgia. Si dice che la Giorgia sia una prostituta. Noi non possiamo saperlo. Però sappiamo che è bella. È strepitosamente bella. È alta, elegante, perfetta. Fa la modella per il pittore Gino. A me piace pensare che quando Gino non c'è, Libero vada a casa della Giorgia per dare a lei la mela o la carota o la susina che gli ha dato il suo amico Francesco. Cioè, Libero dà la susina alla Giorgia e la Giorgia in cambio lei gli dà la sua di susina. Antonia su questo non si è mai espressa. Però una cosa è certa, Libero e la Giorgia spesso fanno dito dito. Nel 1921 Renato sta lavorando per costruire una cellula comunista alla Portela. All'inizio è tutto sotto la luce del sole, perché grazie ad un amico che lavora in cartiera, a Rovereto, la carta non manca e con il ciclostile si possono stampare anche dei fogli di propaganda. Poi però nel 1922, dopo la marcia su Roma, Mussolini dichiara fuori legge il Partito Comunista. Guai a chi disubbidisce. Il pericolo è grande. Renato se ne frega. Lui è il referente per Trento del Partito Comunista. Le riunioni si tengono in segheria da lui. Sono segretissime. Tutti lo sanno che si tengono lì, anche i fascisti. Una sera, nel giugno del 1923, dopo la riunione settimanale, dopo aver bevuto un bicchiere di vino buono, fumato e cantato in allegria, Renato se ne torna a casa. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. I fascisti sono in missione punitiva. Si dividono in due gruppi. Uno aspetta Renato da una parte della strada, l'altro dall'altra. Renato è quasi arrivato al portone di casa. Schizzano fuori, lo prendono nel mezzo, vogliono portarlo via fuori città per dargli una bella lezione, forse per ucciderlo. Renato tenta di difendersi. Ma sono troppi e lo colpiscono con il manganello una volta, due volte, tre volte. Antonia sente il trambusto, apre la finestra, guarda in strada. Stanno trascinando via Renato! Stanno trascinando via Renato! Un fascista la vede, estrae la rivoltella e le spara un colpo. Due colpi. Ma non la colpiscono. È troppo tardi per portare a termine l'impresa. Presto, presto, tra un po' arriveranno i suoi compagni e allora saranno guai. I fascisti assestano qualche calcio a Renato, giusto per spaccargli tre costole, e scappano via. Renato è sanguinante, disteso, svenuto. Vladimiro è nel suo lettino che piange. È libero, al buio, vede tutto. Il santo manganello. Così il principe vescovo De Ferrari di Trento lo definisce. Oh tu, santo manganello, tu patrono saggio e austero, più che bomba e che coltello, coi nemici sei severo. Oh tu, santo manganello, di nodosa quercia figlio, ver miracolo priognor se nell'ora del periglio batti vili e gli impostor. Manganello, manganello che rischiari ogni cervello, sempre tu sarai sol quello che il fascista adorerà. Poi però Don Luigi ha dovuto spiegare a Libero che non tutti i cattolici la pensano come il vescovo e che ci sono dei cattolici che sono anche delle brave persone, anche se ci sono altri che invece non lo sono, soprattutto quelli che stanno in alto. Per battere il blocco fascista è necessario creare un blocco ancora più grande, ancora più forte a sinistra. Ci vuole un giornale che racchiuda le istanze di questo blocco, un giornale attorno al quale si uniscano tutte le forze della sinistra. Lo chiameremo l'unità. Antonio Gramsci, un grande pensatore, debole di salute, fisicamente distrutto, ma è il cervello che funziona. E come? E Renato ama Gramsci, lo ama più di Lenin, lo ama come si ama chi dice le cose che vorresti dire tu, ma che non trovi mai le parole per farlo. E con l'unità Renato ha un rapporto quasi religioso, è la sua Bibbia. In Trentino è lui che si occupa della sua diffusione. Le copie clandestine sono stampate su carta velina con caratteri così piccoli che si possono leggere soltanto con la lente di ingrandimento. Sono stampate a Parigi, poi portate a Milano, poi da Milano Renato le porta in Trentino e le distribuisce alle varie cellule locali. Leggi e passa, leggi e passa, leggi e passa, leggi e passa, leggi e passa, leggi e passa è la parola d'ordine. Una copia può fare il giro anche di 20 o 30 compagni. Si organizzano incontri di lettura, anche perché non tutti sanno leggere e non tutti hanno la lente di ingrandimento. Renato è l'organizzatore, il corriere interregionale del partito, è lui che tiene i rapporti con i vertici, è nel mirino del tribunale speciale fascista. Dopo l'aggressione, Antonia avrebbe voluto che lui smettesse, che abbandonasse il partito, che abbandonasse il comunismo. Però si sa che un uomo esiste per le passioni che prova. E non si può chiedere ad un comunista di essere meno comunista, è come chiedere ad una donna incinta di essere meno incinta. O si è o non si è. Si può chiedere ad un fascista di non essere più fascista, ma non a un comunista di non essere più comunista. Non si può. Renato però non sa che nel suo giro c'è una spia. E la spia si chiama Ezechiele, l'altro fratello di Antonia, quello timido, quello riservato, quello che è morto un fratello in Galizia, il papà che scompare non si sa dove, il fratello che se ne va in Canada, è suo malgrado diventato il fratello maggiore, ma non ne ha la stoffa. Ezechiele ha bisogno di autorità. E così come Renato ama Lenine, ama Gramsci, Ezechiele ama il duce. Porta sempre con sé le sue immagini, ma in segreto, di nascosto. Non è mai uscito allo scoperto, un fascista nel cassetto. Io credo nel sommo duce, creatore delle camicie nere, e in Gesù Cristo suo unico protettore. Il nostro Salvatore fu concepito da buona maestra e da laborioso fabbro. Fu prode soldato, ebbe dei nemici, discese a Roma, il terzo giorno ristabilì lo Stato. Salì all'alto ufficio, siede alla destra del nostro sovrano, di là da venire a giudicare il comunismo. Io credo nelle savie leggi, la comunione dei cittadini, la remissione delle pene, la resurrezione dell'Italia, la forza eterna, e così sia. Obbedire al duce! Odiare, sino all'ultimo respiro, i nemici del duce! Smascherare i traditori! Non venire mai a compromessi col proprio dovere di fascista. Preferire la guerra alla pace, la morte alla resa. Non mollare mai. Ezechiele fa parte di questa cosa qui. Lui ama il duce e l'amore fa fare cose pazze, fa covare strani risentimenti. Forse Ezechiele era geloso di Renato. Fatto sta che alla prima occasione buona lo denuncia. Una sera, nella primavera del 1927, la milizia fascista entra nella falegnameria di Renato. Renato è appena tornato da una sua staffetta a Milano. Cercano dappertutto, non trovano niente, sono furiosi. Con le asce cominciano a sfasciare i mobili e nel doppio fondo di un cassettone trovano 30 copie dell'Unità. Renato è nei guai. Che cosa gli succederà? Renato viene portato alla caserma dei carabinieri e in un momento di disattenzione del carabiniere che lo è in custodia, Renato salta dalla finestra, nel salto si rompe una gamba, ma non importa, corre da Don Luigi, gli racconta quello che è successo e gli dà indicazione di andare da tutti i compagni perché brucino e distruggano tutti i materiali compromettenti e poi gli promette che lui non parlerà e che possono stare tranquilli. E poi, per evitare rappresaglie alla sua famiglia, rientra in caserma. E lì non trova più i carabinieri ad aspettarlo, ma la milizia fascista, e sono incazzati. Oh, se sono incazzati, non ci possono credere che lui sia scappato così, e chissà dove è andato, e chissà cosa ha fatto. Renato viene portato al carcere di Trento, dove viene interrogato, ma non parla. Allora viene messo in una cella di isolamento completo, ancora non parla. Viene trasferito a Regina Coeli, a Roma, continuano gli interrogatori, sempre più violenti, Renato non parla. E poi arriva il letto di contenzione. È di ferro smaltato, freddo. Un telaio di metallo con le sponde alte 20 centimetri. Il letto è bullonato sul pavimento. Quattro fasce di cuoio orizzontale lo tengono bloccato. Due per le gambe, due per il petto e le braccia. La testa è libera di sbattere. Renato è completamente nudo sotto una coperta che lo copre, un buco nel letto per defecare. Non può mai alzarsi. Per mangiare, per bere, viene imboccato. Per defecare, per pisciare, deve fare come può. Una volta al giorno viene lavato con la pompa d'acqua e poi lasciato lì bagnato ad asciugare. Dopo qualche giorno, così, la circolazione del sangue si blocca. Le gambe e le braccia si gonfiano come se esplodessero. Si formano le piaghe da decubito, dolorosissime. 1, 2, 3, 4 giorni. Una settimana, 2 settimane. Lo interrogano di giorno e di notte. Renato continua a non parlare. Gli camminano sul corpo con gli stivali. Gli fracassano le costole. Renato non parla. Quando sviene lo risvegliano con una secchiata d'acqua. Con gli stivali gli fracassano i genitali. Renato non parla. Il sangue che gli esce dalla bocca lo soffoca. Vuole morire. Non mollare, compagno. Non mollare. Vicino ce n'è un altro, come lui, che sta passando esattamente la stessa cosa. Finché un medico del carcere, dopo 3 settimane e 1 giorno di letto di contenzione, lo fa slegare e portare in infermeria. L'inferno sembra passato, ma la condanna è 10 anni e 3 mesi da scontare nel carcere di Trento. Nel 1931, anche libero, viene arrestato. Ma come succede? A Trento c'è la Caproni, una grande fabbrica di aerei con il suo aeroporto. Libero è affascinato dagli aerei. È affascinato dagli aerei per quello che è successo a Gigio, il fratello del suo amico Francesco, il contadino, il capo della cooperativa, il proprietario del negozio. Gigio lavora nei campi di famiglia che sono a circa 2 chilometri a nord del nuovo aeroporto Caproni, aeroporto fascista, voluto per facilitare i collegamenti con la Germania. Dall'aeroporto atterrano e decollano 3 volte alla settimana i Fokker F8, i trimotori olandesi diretti a Monaco e a Berlino. Tutti ne sono affascinati, tutti a testa all'insù a guardare questi aerei rumorosissimi, traballanti, i torpedoni del cielo. Cabina, in realtà, è un salottino elegante. I finestrini si possono abbassare, si può anche mettere fuori la mano, l'aereo vola basso, non più di 1000 metri sopra il profilo delle montagne. Signori eleganti, signore impellicciate, mettetevi pure comodi e appoggiate i vostri cappelli, le borse sulle apposite retine. Le vibrazioni sono fortissime, muovono il corpo. In fondo all'aereo, dietro una tendina, c'è un foro a forma di imbuto, la toilette, aperta direttamente sul vuoto. Si può guardare giù, si può anche salutare. Ehi voi laggiù, lavoratori! Yuhu! Le vibrazioni fanno anche dei miracoli. Per il cambio di pressione l'intestino si gonfia. E così, in un giorno del luglio 1931, c'è il sole. La visibilità è ottima. La signora Beniamina Guidi, moglie di un noto gerarca fascista, appena imbarcata a Trento, diretta a Monaco di Baviera, sente il tanto sospirato stimolo. Lo aspettava da settimane, forse da mesi, forse l'aveva sempre aspettato, l'appuntamento con il destino. Il fecaloma è un ammasso di feci disidratate che può diventare pesante e duro come un sasso e che non si evacua facilmente. La signora Beniamina Guidi corre in fondo all'aereo, solleva la gonna fascista, abbassa la mutanda fascista, si aggrappa alla fascista, spinge alla fascista, ah, il rumore assordante copre ogni altro rumore. Miracolo! Il fecaloma fascista si libra nell'aria, volteggia leggiadro e poi scende deciso come un dardo lanciato dal destino. Gigio è a testa all'insù che guarda ammirato il Fokker. Pam! Morto, colpito da uno stronzo in piena fronte, qui, uno stronzo fascista. Allora, io non so se sia proprio andata così. Però così la racconta suo fratello Francesco. Gigio è morto colpito in fronte da uno stronzo, maledetti fascisti de merda, che moria in Rebalton. È libero, ascolta in silenzio. E poi quando è solo... La trova un carabiniere, ma in codice non capisce. La porta al suo superiore, che pure non capisce. Però si sa, i codici sono fatti per essere svelati. E così dopo 4 settimane un gruppo di saggi, appositamente convocati da Roma, dopo tanto lavoro, studio e analisi, riesce a decifrarla. Ge voria en rebalton. Oh, Ascanio, ma che vuol di? Buh! Convocano allora un esperto di dialetto trentino. Così l'arcano viene svelato, libero, arrestato e mandato al confino. Solo che per lui il confino è il manicomio di Pergine. Il manicomio di Pergine è come un grande centro benessere, solo un po' più cupo, un po' più piastrellato, dove quasi nessuno sorride e chi sorride non sa perché lo sta facendo. Sifilitici, tisici, disabili di tutti i tipi sono lì dentro, ma anche i depressi, gli schizofrenici. C'è quello che urla, quello che si spoglia, quello che vomita, quello che canta, quello che sputa a tutti. C'è chi perde sangue dal naso e chi ha gli occhi fuori dalle orbite e chi, come libero, sta soltanto lì ad osservare. I pazienti dormono in piccole celle chiuse a chiave come dei carcerati. I medici cercano di aiutarli, ma non sanno cosa fare. E finisce che tentano delle cure sperimentali su di loro. L'ultima trovata è quella di indurre il coma farmacologico iniettando dell'insulina nel loro corpo, una specie di elettroshock chimico. Il manicomio è come una grande prigione. I parenti non possono entrare. Nessuno sa come si stia lì dentro. Gli incontri si fanno soltanto nelle sale d'incontro e negli orari prestabiliti. È libero, disegna, documenta. Ida Dalser, la prima moglie di Mussolini, ripudiata. Anche lei è al manicomio di Pergine. E lei parla a Libero e gli racconta la sua storia. Benito mi ha amata. E mi ama ancora. Io sono nel suo sangue. E lui è nel mio. Sì, il Benito è così tanto nel suo sangue che i due hanno anche un bambino, Benito Albino, un nome, una profezia, perché Albino vede poca luce, passa la maggior parte del suo tempo chiuso in manicomio, finché un giorno anche lui, come la madre, muore in un manicomio di Milano, dopo l'ennesimo coma insulinico indotto dai medici. E anche Libero rischia quella fine. Antonia però non si dà per vinta. Renato è in carcere e questo è devastante. Ma il fatto che Libero sia rinchiuso dentro il manicomio di Pergine è un vero strazio. E così scrive una lettera di supplica direttamente a Rachele Mussolini. Nobilissima signora, ancor prima di incominciare, le chiedo perdono se oso rivolgere a lei, nobilissima signora, questa mia preghiera. Ma sono certa del suo compatimento, del suo perdono, perché conosco la sua clemenza. Il dolore mi fa ardita, nobilissima signora, e vengo a lei con la stessa umiltà che mi prostro davanti alla Madonna. Voi siete una vacca, vostro marito un maiale, ed essendo vacca siete anche un po' cornuta, questo lo so perché me l'ha detto la signora Ida. Queste frasi non sono proprio originali, eh. Diciamo che mi sono preso una piccola licenza poetica, ecco. Con Renato in carcere, per Antonia, è dura, ma c'è la brigata Filzi a supportarla. La brigata Filzi sono i compagni di Renato. c'è Don Luigi, incazzato coi fascisti per via di quella questione dell'olio di ricino. C'è Rosario, il panettiere, incazzato coi fascisti perché tutti i giorni la milizia fascista gli preleva la quota pane come contributo patriottico alla causa fascista, naturalmente senza pagarla. C'è Francesco, il verduraio, molto incazzato coi fascisti per via di quello stronzo fascista che gli ha ucciso il fratello. C'è Gino, il pittore, che non è incazzato come gli altri, ma essendo artista lui non vede di buon occhio la disciplina di regime. E c'è la Giorgia, che forse è la più comunista di tutti, perché lei distribuisce compagnia e amore con generosità. Ma non solo loro. Ci sono anche Gian Antonio, il conte, che soffre per il popolo che soffre. Mario, il dottore, che lavora all'ospedale Santa Chiara di Trento, ma che di nascosto organizza cellule comuniste. E Gigino, l'uomo con due dita. Le altre le ha perse per portare un messaggio segreto al grande scalatore Tita Piaz, al Pordoi, nell'inverno del 27. Gli sci hanno ceduto durante una bufera. Lo hanno ritrovato congelato, ma vivo. Gigino è il figlio di Cesare Battisti. E ogni tanto la Filzi ospita anche dei personaggi importanti che passano per Trento una o due volte, ma che lasciano il segno. Come quella volta che hanno ospitato Giuseppe Di Vittorio, un pezzo grosso del comunismo italiano. E Di Vittorio gli ha raccontato di quando lui è stato nell'URSS, all'Internazionale Contadina. E poi a Parigi, dove ho diretto la CGL clandestina. E poi, naturalmente, nella Filzi c'è anche il nostro Libero, che a quella brigata un po' scassata ma molto ben motivata ha dato anche il nome. Eh sì, perché la brigata si sarebbe dovuta chiamare Battisti. Però poi Libero si è opposto fieramente. E tutti hanno capito il volo. È ovvio, no? No, ve lo traduco. Fabio Filzi è morto con Cesare Battisti. Sono morti assieme, forse lui è morto di meno, eppure nessuno se lo ricorda. Tutti celebrano Cesare, gli costruiscono anche dei monumenti. Questa ingiustizia va ripianata. Abbasso le ingiustizie. Libero era un essere sensibile. E così la gloriosa brigata viene battezzata Filzi. Segno distintivo, il saluto segreto, dito dito. E adesso la Filzi deve lavorare per portare fuori Libero da quel manicomio. La lettera di supplica che Antonia scrive a Rachele non serve a niente. Ci pensa il dottor Mario, che scrive direttamente ai medici di Pergine e in copia però anche al prefetto di Trento. Illustrissimi colleghi, se vorrete darmi il permesso di avere in gestione io il signor Libero, mio paziente da anni, è molto bisognoso di cure mediche specialistiche, insomma datemelo me che ci penso io. I medici di Pergine sono ben contenti di consegnare Libero nelle mani del dottor Mario. Gli risponde però il prefetto di Trento. Ma si è scritto che voria in ribaltone addirittura in codice che la commissione per la decifrazione ci ha messo un mese. Avanti, prefetto, Libero è un personaggio un po' particolare, perdonatelo. Noi conosciamo la sua famiglia, sono tutti comunisti. Interviene Gigino Battisti. Non vorrete mica prendervela con un ragazzo così dolce? Sta sempre solo, non parla con nessuno, non è violento, non disturba, disegna sempre. Che male vi può fare? E nessuno se la sente di contraddirlo. E così dopo 4 mesi di detenzione al manicomio di Pergine e neanche un coma insulinico, Libero torna a casa. Grazie a Gigino, ma soprattutto grazie a Mario, che da quella volta diventa il suo migliore amico. Antonia è sollevata, uno è fuori, adesso bisogna resistere, aspettando che anche Renato torni a casa. Per Antonia è dura, è la moglie di un internato, non è facile trovare lavoro. La madre di Gigino, Ernesta Vedova Battisti, interviene. E nel gennaio del 1932 Antonia entra alla Michelin, la fabbrica che a Trento dal 1927 produce le carcasse dei pneumatici. Il lavoro è semplice. Si intrecciano le fibre di cotone creando una tela fitta che dà la struttura al copertone, l'armatura. 500 donne, solo donne, perché gli uomini costano di più. Lavorano all'umido, al caldo, nella polvere di cotone, finissima, devastante. C'è chi tossisce, c'è chi si ammala, c'è anche chi muore. Molte hanno la tubercolosi, tossiscono sangue. Ma non è il caso di lamentarsi. La paga è bassa, ma arriva regolare. E poi con un po' di attenzione basta respirare molto lentamente attraverso il naso, magari mettendosi anche un fazzoletto davanti alla bocca. 8 ore al giorno, al caldo, all'umido, con un fazzoletto davanti alla bocca. Ma Antonia non cede, non si deprime, reagisce. E tutti i giorni Vladimiro, suo figlio, libero, fortunato, suo padre e lei hanno un piatto caldo di zuppa, un uovo, una patata, qualche cosa da mangiare. E Renato? Renato ormai sono 5 anni che è in carcere, torturato, ma silenzioso. Ormai i fascisti non sanno più che cosa fare con lui. Antonia ha il terrore che lo uccidano e che vengano a dirle poverino, ha avuto un infarto. Si vede che era di costituzione debole, ci dispiace. La madre di Gigino, Ernesta Vedova Battisti, ancora una volta intercede. Prende carta e penna e scrive direttamente al duce. Caro Benito, Renato è una brava persona. Non si merita quello che gli state facendo. Chiedo che venga subitaneamente liberato. Questa Ernesta è una rompicoglioni. Come avrà fatto il Cesare a sposarla, proprio non so. Gli avevo anche consigliato di non sposarla. Sì, perché il Benito la conosce di persona, Ernesta Vedova Battisti. Da prima che il Cesare venisse impiccato, quando i due uomini si frequentavano. Insomma, il Benito non può negare un favore alla vedova dell'eroe nazionale sul quale la retorica fascista ha marciato. E così Renato si salva, ma viene mandato al confino, a Lipari, nell'inverno del 1932, e lì trova altri 450 internati. Lipari è un'isola bellissima, è una perla incastonata nel mare azzurro, è un luogo di vacanza, di svago, adesso, ma non ai tempi dei fascisti. Andare a Lipari è come essere mandati sulla luna, case vecchie, disastrate, igiene inesistente, locali umidi, affollamento, manca l'acqua da bere, anche l'acqua per lavarsi. E le regole vogliono che gli internati non possano mai fare il bagno in mare. Una disciplina durissima, un villaggio turistico di quart'ordine. Renato arriva nel bel mezzo di uno sciopero. In ogni istante il saluto fascista è obbligatorio. Non soltanto quando si incontra un superiore, ma anche quando due internati si incontrano, anche quando nessun altro li vede. La nuova regola, voluta dallo zelante capo di questo speciale villaggio turistico, Ermenegildo Basso, ex tenente degli Arditi, fanatico della disciplina credere, obbedire, combattere. Agli internati questa cosa del saluto obbligatorio proprio non va, piuttosto la morte. E così tutti quanti, tutti assieme, iniziano lo sciopero della fame. Se volete morire, tanto meglio. E così tutti quanti, tutti assieme, terminano lo sciopero della fame e iniziano quello dello scrivere. Non scrivono più a nessuno, non scrivono più a casa, non scrivono più agli amici, non si fanno più sentire. Sono scomparsi, sono come morti, 450 morti a Lipari. Le famiglie sono preoccupate, non hanno più notizie dei loro cari, vogliono notizie, allora scrivono telegrammi direttamente al Ministero degli Interni. Da giorni non ho notizie di mio marito, stop. Chiedo notizie, stop. Ho spedito 2 telegrammi settimana scorsa, stop. Ma non ho notizie, stop. Chiedo notizie su mio marito, stop. Da giorni non ho notizie, stop. Questo è il 3° telegramma in 3 giorni, stop. Il ministro degli interni è proprio il duce in persona che riceve giornalmente centinaia e centinaia di telegrammi preoccupati e non sa cosa rispondere, altro a cui pensare, lui. Caro Benito, stop. Sono molto preoccupata per lo stato di salute di Renato. Stop. Se non avrò notizie a brevissimo, mi vedrò obbligata a recarmi a Lipari di persona a verificare. Stop. Il Benito non ha scelta. Prende il telefono. Per l'amor di Dio, tenente Basso, faccia smettere questo tormento prima che le si presenti la rompicoglioni di persona. Chi? Lasci perdere. Li faccia fucilare tutti. No, no. Piuttosto dismetta l'ordine del saluto, questa sua imbecille idea che questi si debbano salutare alla fascista anche quando vanno al cesso. Il Duce è il Duce perché è un po' più intelligente dei suoi seguaci. Non che ci voglia molto. Ma Sua Eccellenza, mio Duce, e se lo facessimo più piccolo? No. Un salutino fascistino, tenente Basso, obbedisco! E così il gerarca deve cedere e gli internati non hanno più l'obbligo del saluto fascista. Una vittoria insperata. Nel 1935 Mussolini è a Trento. Piazza Duomo è addobbata come un set cinematografico. Carta pesta dappertutto, il colpo d'occhio è tutto, si sa. E Mussolini era un maestro della finzione. Italiani, trentini, è giunta anche per noi l'ora fatale. Adesso l'Italia diventerà un impero coloniale. Da oggi l'Italia dichiara guerra all'Etiopia, perché anche l'Italia ha diritto al suo posto al sole. E io me li immagino i trentini accorsi numerosi in Piazza Duomo a vedere questo grande show di Mussolini, che si guardano perplessi. Un posto al sole, miel gozà en baita. Ma c'è un'altra vicenda dal racconto che mi fece Antonia che mi ha molto colpito. Mussolini, si sa, era un grande viveur. E dovunque lui andasse, lui non perdeva occasione per organizzare qualche festino divertente. E così, quella volta a Trento, perché il potere inebria e l'inebriamento va scaricato in qualche modo, quella volta a Trento, lui chiede che gli si portino 10 ragazze tutte per lui. Per molti uomini 10 ragazze sono tante, ma Mussolini era un tipo esuberante, lui ne vuole 10, non 9. Non 11, 10 ragazze per lui possono bastare, per dire. I fascisti locali si danno da fare pur di soddisfare i desideri del loro duce supremo. Ogni desiderio del duce è un ordine. Trovate le 10 ragazze più belle della città. Tutti nelle file fasciste si danno da fare. Il duce va accontentato ad ogni costo. E anche Ezechiele, il fratello di Antonia, si precipita a soddisfare i desideri del suo amato. Lui è attivo, è zelante, lui ci tiene al duce. E segnala ai suoi capi che alla portella c'è una ragazza bellissima, la più bella, la Giorgia. La Giorgia diventa una delle 10. Le 10 ragazze vengono portate al cospetto di Mussolini. Oggi avrete l'opportunità di salutare e di lavorare per l'impero. Avanti ragazze, salutate degnamente Sua Eccellenza il nostro Duce. Fare il saluto fascista. La Giorgia si rifiuta di fare tante altre cose. Il giorno dopo il corpo della Giorgia viene trovato nell'Adigetto, il fiumiciatolo che scorre a fianco dell'Adige. Ha avuto un infarto mentre tornava a casa. Poverina, era di costituzione debole, ci dispiace. La morte della Giorgia non va giù alla brigata Filzi. Si incontrano, ne parlano, discutono, che cosa fare? Il giorno dopo, il corpo di Ezechiele, il fratello traditore, viene trovato nell'Adigetto. Anche lui ha avuto un infarto mentre tornava a casa. La domenica, Don Luigi, durante la messa, denuncia la morte, l'assassinio della Giorgia, la morte di questa nostra sorella, e in qualche modo anche di Ezechiele. È da attribuirsi direttamente a Mussolini e a quei maiali dei suoi seguaci. Il regime fascista è un regime assassino. La mattina dopo, Don Luigi è in prefettura a staccare il suo biglietto per un altro villaggio turistico. Lui va a Ustica. nel 1937 Renato termina la sua detenzione a Lipari ed esattamente dopo 10 anni e 3 mesi finalmente torna a casa da Antonia, da suo figlio Vladimiro, che ormai è un giovanotto, da libero, dai suoi amici, dai suoi compagni della Filzi. Vladimiro non sta bene, è sempre ammalato, febbriciatole che fanno, che vanno, che vengono, senso di stanchezza, forse è il cibo che scarseggia, quel poco che c'è è pessimo, polenta, patate, qualche verdura, qualche uovo, quasi mai carne, tutto costa, non ci sono i soldi per niente. Antonia ha sempre fatto del suo meglio per portare a casa la pagnotta, ma quello che può non è molto. Renato, basta. Basta comunismo, Renato. Hai un figlio, prenditi le tue responsabilità. Devi portare a casa dei soldi, devi lavorare. Consunzione, la chiama il dottor Mario. Un giovanotto come Vladimiro, nel pieno della sua esuberanza fisica, deve mangiare di più e mangiare meglio. E anche il dottor Mario si attiva e tutti i giorni lui dall'ospedale gli porta qualcosa di nascosto dentro la sua gavetta di latta. Un pezzo di carne, un pezzo di formaggio, del pane, del latte fresco. Qualche cosa, non molto, ma almeno si può cercare di sopravvivere così. E ogni tanto il dottor Mario si porta dietro la tina. La tina è un'infermierina tutta piccolina. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Dai capelli neri. Anche se avverso il destino domani sarà. Non è bellissima. Oggi ti sono vicino perché sospiro. Ha un grosso nasone. Le sopracciglia nerissime che si congiungono, un po' di strabismo di Venere, una leggera scogliosi, le orecchie a sventola, i dentoni che spuntano fuori. Insomma, è proprio brutta. Ma ha gli occhi buoni e si sa che al cuor non si comanda e a Libero piace, oh, se gli piace, la copre di disegni. Parlami d'amore, Mario. Se si pensa che i fascisti siano cattivi, allora non si conoscono i nazisti. In Germania già dal 1933 si è cominciato a sterilizzare i disabili. E adadesso con l'operazione Action T4 si è passato direttamente alla soppressione dei più deboli. Sono le prove generali di quello che poi succederà agli ebrei. In Italia Mussolini è passato dall'essere l'ispirazione di Hitler all'ispirato. Nel 1938 Mussolini emana le leggi razziali e Antonia trema al pensiero che il prossimo passo di questa bestialità possa essere un'operazione T4 a modo nos. Libero è già schedato, è stato al manicomio di Pergine, lo possono venire a prendere in ogni istante. E così il dottor Mario e Tina contattano i medici di Pergine perché brucino e distruggano tutti i documenti e i referti relativi a Libero. Forse è per questo che Libero sopravvive. Ma poi succede l'altra catastrofe, quella grande, quella mondiale, quella che fa sembrare Mussolini un dilettante in confronto a Hitler. La Germania annette l'Austria, invade la Cecoslovacchia, aggredisce la Polonia, occupa la Danimarca e la Norvegia, fa irruzione nei Paesi Bassi e nel Belgio, si mangia l'esercito francese. L'Italia parte per l'Africa, l'Albania, la Grecia, la Russia. Fuoco, fuoco dappertutto. E gli scarponi di cartone, e i moschetti della Prima Guerra Mondiale, e i comandanti netti, e la fame, e la paura, e la rabbia. Ma la vita continua. La guerra è dappertutto, ma Trento sembra esserne immune. E Libero passa le sue giornate facendo il giro della Portela, disegnando con il pittore Gino, aspettando le visite di Tina, l'infermierina, finché un giorno, anche fortunato. Il papà di Libero di Antonia muore nel 1941. Se ne va come aveva sempre vissuto, scomparendo così nel nulla. Adesso non si parla più di antifascismo, adesso si comincia a parlare di resistenza. Tutti sono impegnati a sopravvivere, tutto manca. Anche i beni fondamentali, il sapone per lavare gli indumenti è razionato. Arriva da Milano una volta ogni 15 giorni, quando va bene. Il sale, lo zucchero, l'olio, il caffè sono ormai beni di lusso. Ma la brigata Filzi non molla. Continuano ad incontrarsi ogni settimana a parlare di quello che sta succedendo, si criticano le direttive della guerra, si analizzano gli errori commessi e si beve un bicchiere di vino assieme per tenere vivo lo spirito di essere compagni. Il conte Gian Antonio e il dottor Mario sono i più attivi. Mario viene così spesso a casa di Antonia e di Renato che ha una stanza tutta per sé. Ha un letto e le chiavi per entrare e uscire quando vuole. E ogni tanto Mario si apparta, pensa di non essere notato, ma Libero vede tutto. Mario si brucia con il fuoco di una candela, si pianta un ago nelle cosce. Mi alleno per quando mi prenderanno. Sarà dura, confessa a Libero. Adesso Antonia non lavora più alla Michelin, è stata esonerata, licenziata per esubero di dipendenti. E Vladimiro ormai è un giovanotto, però continua ad essere molto debole, ad aver bisogno del dottor Mario che di tanto in tanto gli porta del ricostituente dall'ospedale, del cibo. Vladimiro viene anche richiamato alle armi. Ma il dottor Mario lo fa ricoverare e poi esonerare. E Libero? Ah, Libero disegna. Disegna sempre, disegna per Tina. È proprio innamorato, è un amore fortissimo. Tina la buona, Tina che aiuta i malati, Tina che è bruttina e che mai nessuno la vorrà, ma Libero piace e Tina lo sa. E lo viene a trovare tutti i giorni, quando può. Lavora alla cassa malati, una specie di guardia medica che sta proprio sotto la casa di Libero. I due non si parlano, fanno dito dito, poi Tina prende i disegni che Libero le ha fatto, saluta. E poi esce. Così, fino al 25 luglio 1943, quando il Gran Consiglio fascista, sul volere del re, depone Mussolini e lo fa incarcerare al Gran Sasso. E consegna il governo nelle mani del generale Badoglio, che dichiara: la guerra continua a fianco dei tedeschi. Giovedì 2 settembre 1943, una giornata limpidissima. Da stamattina che Libero fa un rumore. Alle 11:56 suona l'allarme. Le sirene emettono tre suoni, poi pausa, poi altri tre suoni. È quasi l'ora di pranzo. Nel quartiere della Portela, nell'edificio della Cassa Malati, gli ambulatori sono aperti. C'è tanta gente. Lì c'è anche Tina. Il dottor Mario invece è a Santa Chiara. Alle 11:56 suona l'allarme. Le sirene sono fortissime. Lacerano i timpani. Altre volte si erano sentite, ma non era mai successo niente. Non ci sono obiettivi strategici a Trento, se non lo scalo ferroviario. E tutte le notti passano i convogli tedeschi carichi di soldati, di mezzi militari, di cannoni, ben sistemati sotto teli immacolati di giallo, verde, marrone, che li nascondono, mimetizzati. I tedeschi sono maestri nell'arte del camuffaggio. Evidentemente non tanto, tutti lo sanno che lì sotto ci sono i cannoni. Figurati se non lo sanno anche gli americani. Ma Trento è protetta dalle montagne, le fortezze volanti certamente non possono piombare sulla città, e poi ci sono i vuoti d'aria, almeno così si dice, anche se nessuno sa bene cosa siano. Alle 11:56 suonano le sirene, Libero, dopo 5 ore e 36 minuti, smette di disegnare. Thank you. arrivano gli aerei, si vedono benissimo, sono bassi, sono americani, sono i B-17, le fortezze volanti, 91 B-17, partiti dalla Tunisia, hanno volato tutto il tempo 10.000 piedi a 3 chilometri giusti giusti, sono passati sopra Livorno, lì si sono scontrati con 10 caccia tedeschi, ma i B-17 non si chiamano fortezze volanti per niente. Ogni aereo ha 13 cannoncini di grosso calibro, i 10 caccia tedeschi sono abbattuti tutti. I B-17 arrivano sopra la valle dell'Adige. Eccoli. Adesso sono sopra Trento. 364 motori spinti al massimo. Adesso Antonia capisce che cosa stava facendo libero dalla mattina, da ieri, al mercato. Lui aveva già visto tutto. Lunghe scie di fumo, adrenalina, impressionante, terrificante. La grande stella a 5 punte, bianca, sulle carlinghe, sulle fusoliere. 218 tonnellate di bombe di demolizione lanciate dalle 91 fortezze volanti. L'obiettivo è la ferrovia, ma sbagliano mira e colpiscono la Portela, il quartiere povero, antico, umido, muffoso. I poveracci sono sempre quelli che ci rimettono. In 3 minuti è tutto finito. Prima c'è l'onda d'urto, lo spostamento dell'aria così forte che ti strappa i vestiti. Donne, uomini, sono spogliati in un istante. Poi il calore, sempre più forte, insopportabile, che scioglie i vetri. Poi le esplosioni, le schegge di acciaio, di roccia, di ferro, come pugni che ti strappano mani, braccia, gambe, occhi, denti, teste. Poi crolli, putrelle, tronchi di legno come stuzzicadenti, pareti che si schiantano, pavimenti che cedono. Il pittore Gino è in strada. Qualcuno gli urla: Gino, buttati giù, nasconditi per Dio! Ma Gino è un artista, è affascinato da quegli aerei. E li sta a guardare, curioso, come un bambino. Un pugno di acciaio lo colpisce alla schiena e per lui non c'è speranza. Un bambino corre per strada terrorizzato. Nel buio del fumo, nel calore delle bombe, non si accorge che c'è un cratere di fronte a lui, ci cade dentro. La parete di una casa lo ricopre. È vivo. Urla. Nessuno lo sente. Lo ritroveranno 5 mesi dopo, morto. Altri sono nel rifugio sotto la cassa malati. Sono decine. Donne e bambini e qualche uomo sono al sicuro. Ma l'edificio che sta sopra di loro crolla e blocca l'uscita. Un tubo dell'acqua si rompe. Nessuno all'acquedotto ha pensato di fermare il flusso. L'acqua nel rifugio comincia a salire. Gli uomini si lanciano verso l'uscita, con le mani cercano di togliere i detriti, ma c'è un edificio di 5 piani crollato sopra di loro. L'acqua continua a salire, lentamente. Un muoiono tutti, annegati. Tina è fra di loro. I soccorsi sono subito disperati. Molti scavano con le mani perché non ci sono neanche i badili. Urla di chi sta sotto le macerie, sepolti vivi. Forte odore di sangue, di terra, di zolfo, come se bruciassero milioni di fiammiferi, di calcinacci, di carne bruciata. Un uomo senza braccia, il corpo di un uomo decapitato. Bambini senza mamma, mamme senza bambini. I morti sono centinaia. I feriti vengono portati all'ospedale. Mario coordina il pronto soccorso. Ma Tina non c'è. E Libero piange silenziosamente. Antonia è lì. È stata con lui per tutto il tempo. Finito il bombardamento, Libero appoggia i fogli per terra, si gira e la abbraccia. Per la prima volta Libero riesce ad abbracciare qualcuno senza urlare, senza scappare. E quel qualcuno è sua sorella, Antonia. Antonia mi disse che a questo punto Libero è come paralizzato. Mangia, si addormenta, però poi appena si sveglia se ne sta alla finestra e guarda in strada verso l'edificio della cassa malati che ormai è distrutto e non disegna più. Un giorno viene anche il dottor Mario a visitarlo. Due giorni vengono Rosario il panettiere e Francesco il verduraio. Tre giorni Renato è molto preoccupato. Anche il conte Gianantonio viene a salutarlo. Quattro giorni Antonia non sa cosa fare. Cinque giorni Libero non si muove. Sei giorni Libero è sempre lì. Anche Vladimiro cerca di convincerlo ad uscire da quello strano stato paralizzato. Libero ha una crisi di nervi, si batte i pugni in testa, rotola sul pavimento. Arriva l'8 settembre. L'Italia firma l'armistizio. I tedeschi diventano ufficialmente i nemici. Occupano la città uccidendo chiunque intralci il loro passaggio. Quella notte Antonia sente la porta di casa che si apre e si chiude. È Libero che è uscito lasciando un foglio, un nuovo disegno sul tavolo della cucina. Antonia si alza, va alla finestra, guarda fuori nell'oscurità. Un fantasma. Un fantasma che sembra danzare. È Libero? Cos'ha in braccio? Un cane? Un bambino? Alle 2:05 della mattina del 9 settembre 1943, Libero, all'età di 33 anni, viene colpito a sangue dalle mitraglie delle SS. Qui in realtà la nostra storia sarebbe finita, perché Libero ormai non c'è più, ma rimane un suo ultimo disegno ed è un disegno per molti versi misterioso. Dopo l'8 settembre, Vladimiro si unisce alle Fiamme Verdi, una formazione di giovani partigiani con a capo proprio il conte Gian Antonio. Le Fiamme Verdi sono molto attive e creano non pochi problemi ai tedeschi, con opere di sabotaggio, con attacchi a gruppi di soldati, ma non durano tanto. Sono annientate quando uno di loro, un bastardo, un figlio di puttana, un cane, un maiale di nome Fiore, li denuncia alle SS. Il conte Gian Antonio e Vladimiro sono arrestati il 28 giugno 1944 e vengono portati alla sede della Gestapo di Bolzano. Vladimiro si rifiuta di fare i nomi dei suoi compagni, si lancia contro le due SS che lo stanno interrogando e queste gli sparano a bruciapelo. Lui non era una pedina importante. Ah, il conte invece, lui va tenuto in vita, lui sa tutto, lui conosce i nomi di tutti. Allora lo interrogano dolcemente, non parla. Lo torturano, non parla. Alle 8 della mattina del 6 luglio, il conte si trova per qualche istante da solo, assieme all'interprete. I due si guardano così senza parlare. Poi la porta si apre, ma nessuno entra. L'interprete esce per vedere che cosa sia e quando rientra trova il conte fuori dalla finestra appeso al davanzale. Guarda che cosa ti sto facendo! L'interprete si precipita per afferrarlo, ma Gian Antonio lascia la presa e cade nel vuoto. La morte è istantanea. Il conte non ha parlato. Antonia e Renato non si sono più ripresi da tutti questi lutti. Il ventennio fascista e la guerra sono stati per loro una sofferenza indicibile, una tortura infinita. E il dottor Mario? Ah, il dottor Mario, lui ormai non può più lavorare all'ospedale Santa Chiara. Troppi sanno che lui ha curato così tanti partigiani e soldati italiani dopo la guerra, dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio. Lui scappa. Si rifugia sulle montagne sopra Belluno, partecipa ad azioni di sabotaggio, diventa un capo partigiano, si fa chiamare Montagna. Ma anche lui è vittima di una spia. Carlo, nome di battaglia Kingo. Dove sono i vostri compagni, dottore? Calci, pugni, nerbate. Dove sono i vostri compagni, dottore? Cavi elettrici alle tempie, alle orecchie, alle dita, collegati ad un elettrogeneratore. Scosse elettriche fortissime, altre nerbate. Montagna si era preparato, si era bruciato col fuoco delle candele, si era spento le sigarette sul dorso delle mani, si era bucato le cosce con degli aghi, ma quello che gli fanno va oltre, è molto di più. Fili elettrici ai genitali. Dove sono i vostri compagni? Dottore, scosse elettriche, sputi, colpi alla nuca col calcio del fucile, altre scosse ancora più potenti ai genitali. Dove sono i vostri compagni? Dottore, con una pinza gli sollevano le unghie delle dita, una alla volta gliele strappano, poi passano a quelle dei piedi. Montagna sviene. Un secchio di acqua ghiacciata lo risveglia. Dove sono i vostri compagni? Dottore. Con un ferro rovente gli bruciano la pianta dei piedi, con un trapano gli bucano il ginocchio, altre secchiate di acqua ghiacciata e poi avanti a spingere la punta del trapano dentro il ginocchio. Dove sono i vostri compagni? Dottore, il sangue lo soffoca, gli danno dell'aceto. Parla e ti liberiamo! Il 10 marzo 1945, Montagna viene impiccato con altri 9 compagni nel bosco dei castagni sopra Belluno. Li impiccano con il filo spinato, li lasciano morire così e i cadaveri rimangono appesi per 2 giorni. Li trovano i compagni partigiani quando ormai i tedeschi si sono già ritirati. I contadini delle case vicine portano i loro abiti più belli per vestire i corpi. Onore ai morti. Nel muretto, nascosto sotto il pagliericcio dove aspettava la sua esecuzione, Mario ha scritto con il sangue: «Io muoio, ma voi ricordate di non tradire i vostri compagni». Montagna. È difficile da credere, ma questa scena è esattamente l'ultimo disegno di Libero. Oggi, all'ospedale di Trento, in Santa Chiara, c'è una lapide con su scritto: in questo asilo di scienza e di vita, apostolo e soccorritore. Nella lotta per la libertà, organizzatore combattente. Mario Pasi, con la fede, con le opere, con la morte, testimoniò dal capestro nazista in Belluno a D 10 marzo 1945 la indomabile forza e la certa vittoria del popolo lavoratore.